Capitolo 31. Là dove il fiume e il ruscello si incontrano. Anna ebbe la sua estate divertente e se la godette fino in fondo. Visse praticamente sempre all'aria aperta con Diana, sfruttando tutte le gioie che il sentiero degli innamorati, la bolla dell'Adria, dello stagno dei Salici e l'isola Vittoria avevano da offrire. Marilla non protestò neppure una volta per quella vita vagabonda. Un pomeriggio, all'inizio delle vacanze, il medico di Spencer Vale, lo stesso che era stato chiamato in gran fretta la notte dell'attacco di laringite difterica di Minnie May, aveva incontrato Anna a casa di un paziente. L'aveva osservata con attenzione, aveva fatto una smorfia, scrollato il capo e infine, tramite una comune conoscenza, aveva mandato un messaggio a Marilla Cuthbert. «Mi raccomando, tenga quella ragazzina dai capelli rossi all'aria aperta per tutta l'estate e non le permetta di leggere un libro finché non camminerà a passo più vivace». Quel messaggio aveva preoccupato parecchio Marilla. In quelle poche righe aveva letto una condanna a morte per consunzione della sua figlia adottiva. Se il consiglio del dottore non fosse stato seguito con il massimo scrupolo, il risultato fu che, in quanto a libertà e possibilità di scatenarsi, Anna trascorse l'estate più bella della sua vita. Poté passeggiare, correre, andare in barca, divorare frutti selvatici e sognare a occhi aperti a volontà. Ora di settembre aveva uno sguardo vivace e luminoso, un'andatura tonica che avrebbe dato gran soddisfazione al medico di Spencer Vale. E il cuore che di nuovo traboccava di entusiasmo, voglia di fare e di primeggiare. «Mi sento pronta a studiare con energia e impegno», dichiarò mentre riprendeva i libri in soffitta. «Cari vecchi amici, sono contenta di rivedere le vostre facce oneste. Sì, anche la tua, cara geometria. Ho vissuto un'estate perfetta, Marilla, e adesso sono ansiosa di riprendere i miei doveri, quanto lo è un uomo in piena forma di partecipare a una corsa, come ha detto il signor Alan in chiesa domenica scorsa. Ultimamente il pastore fa dei sermoni magnifici, non trovi? La signora Linde dice che migliora ogni giorno e che c'è il rischio di vederselo soffiare sotto il naso da qualche chiesa di città. Così resteremo di nuovo senza guida e ci toccherà farne crescere un altro alla prima esperienza. Io però non vedo il motivo di fasciarsi la testa prima di esserci fatti male, no, Marilla? Intanto godiamoci, signor Alan, visto che per ora è con noi. Se fossi un uomo vorrei essere un ministro della Chiesa. Loro sì che, predicando bene la dottrina, possono influenzare la gente perché si comporti come si deve. Immagino che sia emozionante pronunciare sermoni appassionati e toccare il cuore di chi ti ascolta. Secondo te, perché le donne non possono diventare pastori, Marilla? L'ho chiesto anche alla signora Linde e mi ha guardato sconvolta come se avessi bestemmiato. Dice che forse negli Stati Uniti c'è qualche donna pastore, anzi, le sembra proprio che là ce ne siano, ma grazie al cielo in Canada non siamo ancora a questo punto e lei si augura che non ci arriveremo mai. Io non capisco. Sono convinta che le donne sarebbero ottimi pastori. Ogni volta che bisogna organizzare un evento per raccogliere fondi, le donne vengono chiamate a occuparsene e in base a come è brava in queste cose sono certa che la signora Linde sarebbe in grado di pregare bene quanto sovrintendente Bell. E senza dubbio, magari con un po' di esercizio potrebbe anche predicare. Ah, questo lo credo anch'io, fu il secco commento di Marilla. D'altronde predica già parecchio in privato. Nessuno può allontanarsi dalla retta via di Avonlea, con Rachel che controlla tutto e tutti. Marilla, disse Anna, presa da un desiderio di confidenza, devo dirti una cosa e chiedere il tuo consiglio. Mi preoccupa terribilmente, cioè di più la domenica pomeriggio quando rifletto su queste cose. Allora, io vorrei tanto diventare buona, lo sai. Quando sono con te, la signora Allan o la signorina Stacy lo desidero ancora di più. Voglio comportarmi proprio come piace a voi e meritarmi la vostra approvazione. Invece, se sono con la signora Linde, mi sento cattivissima, come se non vedessi l'ora di fare esattamente tutto ciò che lei mi raccomanda di non fare. È una tentazione quasi irresistibile. Ecco, secondo te, perché mi sento così? Significa che sono una ragazza malvagia e degenerata? Per un istante Marilla la guardò con aria perplessa. Poi scoppiò a ridere. «Ah, Se tu sei malvagia e degenerata, Anna, allora credo di esserlo anch'io, perché spesso Rachel fa lo stesso effetto anche a me. A volte la penso come te, mi sembra che potrebbe avere un'influenza positiva sulle persone se solo non le tormentasse, per costringerle a comportarsi bene. Dovrebbe esistere un comandamento specifico per vietare l'insistenza inutile, ecco. Ma non dovrei parlare così, basta. Rachel è una buona cristiana e agisce con le migliori intenzioni. Non c'è nessuno più gentile di lei in tutta Avonlea ed è sempre disponibile quando si tratta di dare una mano al prossimo. Oh, mi consola il fatto che anche tu ti senta così, Marilla, disse la ragazzina convinta. È molto incoraggiante e smetterò di arrovellarmi, anche se ci saranno altre cose per cui preoccuparmi, lo so. Si rinnovano di continuo le cose che ti lasciano perplessa. Voglio dire, risolvi un problema e ce n'è subito un altro. Ci sono talmente tante cose su cui riflettere, decisioni da prendere, quando si comincia a diventare grandi. Sono sempre lì a pensarci per capire cosa è giusto e cosa non lo è. Crescere è una faccenda seria, vero Marilla? Però ho buoni amici come te, Matthew, la signora Alan e la signorina Stacy, quindi dovrei crescere nel migliore dei modi e so già che la colpa sarà solo mia se le cose andranno male. Sento che è una grande responsabilità, perché ho un'unica occasione. Se non vengo su bene la prima volta, non potrò tornare indietro e riprovare. Quest'estate sono diventata più alta di 5 centimetri, sai? Alla festa di Ruby, il signor Gillis mi ha misurata. Per fortuna che i vestiti nuovi che mi hai fatto sono più lunghi. Quello verde scuro è stupendo e tu sei stata gentilissima a metterci quel volante. Sì, lo so che è inutile, ma quest'autunno balze volante sono all'ultima moda. Figurati che Josie Pye ne ha uno, o anche di più, su ogni abito. So già che così riuscirò a studiare meglio. Quel bellissimo volante mi regalerà un senso di pienezza. Oh, se è così, valeva sicuramente la pena di metterlo, ammise Marilla. La signorina Stacy tornò alla scuola di Avonlea e trovò una classe pronta a ricominciare. Il gruppo della Queen's Academy in particolare era desideroso di impegnarsi al massimo, perché alla fine dell'anno li aspettava, minaccioso, il fatidico esame di ammissione, il quale già proiettava un'ombra sul loro cammino e il cui solo pensiero faceva sprofondare il cuore di ognuno fin giù nelle scarpe. E se non ce l'avessero fatta? Quell'angoscia avrebbe perseguitato Anna da sveglia in ogni ora dell'inverno e perfino la domenica pomeriggio, allontanando quasi del tutto dalla sua mente i problemi morali e teologici. Nei brutti sogni, quando ne faceva, si vedeva fissare avvilita il tabellone dei promossi con il nome di Gilbert Blythe che campeggiava al primo posto dell'elenco, mentre il suo non c'era. Ciò nonostante, quello fu un inverno allegro, pieno di impegni e di svaghi, che volò veloce come il vento. Il programma di studio era appassionante e la competizione in classe coinvolgeva i ragazzi come in passato. Nuovi mondi fatti di pensieri, sentimenti e ambizioni, campi freschi e affascinanti di conoscenza inesplorata, sembravano spalancarsi davanti agli occhi famelici di Anna. E al di là di ogni collina ne vede un'altra, dietro le Alpi ancora. Gran parte del merito era da attribuire alla guida attenta, disponibile e dolce della signorina Stacy. La giovane maestra stimolava i suoi allievi a pensare, esplorare e scoprire da soli. L'incoraggiava ad allontanarsi dalle vie già battute, al punto di turbare la signora Linde e il consiglio scolastico, che guardavano con sospetto qualunque novità rispetto ai metodi di insegnamento tradizionali. Oltre allo studio, anche la vita sociale di Anna si fece più intensa, perché Marilla, che non aveva certo dimenticato le raccomandazioni del medico di Spencervale, le permetteva di uscire per divertimento di tanto in tanto. Il circolo culturale era sempre molto attivo e organizzò parecchi spettacoli. Ci furono un paio di feste, come quelle dei grandi, o quasi, e si fecero molti giri in slitta e corse sui pattini. Anna, intanto, continuava a crescere anche in altezza, così in fretta che un giorno Marilla, trovandosela accanto, scoprì con un certo stupore che era diventata più alta di lei. Anna, ma quanto sei cresciuta? Esclamò incredula e sospirò. Marilla provava una strana malinconia a causa di quei centimetri in più. La bambina che aveva imparato ad amare non c'era più. Ora al suo posto c'era quella ragazza di 15 anni, alta, dagli occhi seri, con la testa sempre retta, fiera e la fronte pensierosa. Marilla voleva bene alla ragazza, proprio quanto ne aveva voluto alla bambina, ma si rese conto di provare un senso di perdita, inatteso e doloroso. Una sera, mentre Anna era uscita per andare a una riunione di preghiera insieme a Diana, Marilla si sedette da sola nel crepuscolo invernale e si concesse la debolezza di piangere. Entrando con la lampada in mano, Matthew la trovò così, in lacrime, e la guardò, talmente esterrefatto che la sorella non poté fare a meno di ridere. «Stavo pensando ad Anna», gli spiegò. «È così grande ormai, ed è molto probabile che il prossimo inverno starà sempre lontana da noi. Oh, quanto mi mancherà!» «Su, su, potrà tornare spesso a casa, lo sai», la consolò Matthew, per il quale Anna era ancora e sarebbe sempre rimasta la bambina seria che aveva portato a casa da Bright River una sera di giugno di 4 anni prima. Ora di quest'inverno avranno finito di costruire la linea ferrata per Carmody. Non sarà la stessa cosa, non sarà come averla sempre qui, sospirò Marilla, disperata, decisa a godersi fino in fondo il lusso di un dispiacere inconsolabile. Ecco, vedi, voi uomini queste cose non le capite. Ci furono altri cambiamenti in Anna, concreti e visibili come quelli dell'aspetto fisico. Tanto per cominciare divenne più silenziosa. Forse pensava e sognava come prima, ma di sicuro parlava meno. Marilla se ne accorse e glielo fece notare. Non chiacchieri più come prima, Anna, e non usi più tutti quei paroloni, ma cosa ti è successo? La ragazza arrossì e si lasciò sfuggire una risatina mentre lasciava cadere il libro e rivolgeva uno sguardo sognante fuori dalla finestra, dove gemme rosse e gonfie spuntavano fitte sui rami del rampicante, rispondendo al richiamo allettante del sole primaverile. Non so, non ho più voglia di parlare come un tempo, rispose pensierosa, posandosi la punta di un dito sul mento. È più bello avere pensieri teneri e piacevoli e custodirli nel cuore, come tesori. Non mi piace che qualcuno possa ridere di ciò che penso o si faccia domande sul significato dei miei pensieri. E hai ragione, sì, mi è passata la smania che avevo di usare parole importanti. È quasi un peccato. Ora che sono abbastanza grande potrei usarle quanto mi pare e piace. In un certo senso, essere quasi un'adulta è divertente, ma non è il tipo di divertimento che mi aspettavo, Marilla. Ci sono talmente tante cose da imparare, fare e pensare che non rimane tempo per le parole troppo solenni. E poi la signorina Stacy dice sempre che più le parole sono semplici, più sono espressive e forti. Ci insegna a scrivere i temi in uno stile più spontaneo, meno costruito, sai? All'inizio lo trovavo difficile. Ero così abituata a infarcire i miei scritti di tutte le belle parole altisonanti che conoscevo e me ne venivano in mente a decine. Ma ormai mi sono abituata e mi rendo conto che è molto meglio. E che fine ha poi fatto il club letterario? Non ne parli più da tanto tempo. Ah, non esiste più. Non avevamo mai tempo e comunque c'eravamo anche stancate. Era sciocco continuare a scrivere di passioni, assassini, fughe d'amore e misteri. Ogni tanto la signorina Stacy ci fa scrivere qualche storia come esercizio di composizione, ma ci permette di raccontare soltanto ciò che accade ad Avonlea e nella nostra vita. Poi le analizza con molta cura e le fa analizzare anche a noi. Non avevo mai capito quanti errori ci fossero nei miei temi finché non ho cominciato a trovarli da sola. Mi sono vergognata tanto che volevo smettere di scrivere. Ma l'insegnante ha detto che imparerò a scrivere bene solo se sarò capace di essere la critica più severa di me stessa. Perciò ci sto provando. Mancano solo 2 mesi all'esame di ammissione, disse Marilla. Pensi di farcela, a superarlo? Anna rabbrividì. Non lo so. A volte mi convinco che andrà tutto bene, poi però mi prende una paura terribile. Abbiamo lavorato con impegno e la signorina Stacy ci ha preparate davvero bene, lo sai, ma non è detto. Abbiamo tutti un punto debole. Il mio è la geometria, ovvio. Per Jane è il latino, per Ruby e Charlie l'algebra e per Josie l'aritmetica. Moody Spurgeon dice che si sente nelle ossa che farà un disastro in storia. A giugno la maestra ci farà fare una prova severa, come l'esame di ammissione, e la valuterà. Così avremo un'idea di cosa ci aspetta. Vorrei che fosse tutto già finito, Marilla. Questa attesa è un tormento. Pensa che a volte mi sveglio di notte e comincio a chiedermi che cosa succederà se non supero l'esame. Cosa vuoi che succeda? Tornerai a scuola l'anno dopo e ci riproverai, rispose imperturbabile Marilla. Oh no. Credo che non avrei mai il coraggio di farlo. Mi vergognerei così tanto se fallissi, soprattutto se se gli altri miei compagni superassero la prova. Il problema è che agli esami mi agito tantissimo e rischio di fare un gran pasticcio. Vorrei avere il sangue freddo di Jane Andrews. Lei non si smuove mai di un millimetro. La ragazza sospirò e tornò a immergersi nel libro, distogliendo lo sguardo dalle magie della primavera. La dolce giornata limpida, il vento, il verde chiaro e fresco che cominciava a spuntare in giardino. La primavera sarebbe tornata puntuale, come ogni anno, ma Anna era certa che, se non fosse riuscita a superare l'esame di ammissione alla scuola superiore, non si sarebbe mai ripresa da poterne godere ancora. Capitolo 32. La lista dei promossi. Alla fine di giugno si concluse il trimestre e terminò anche l'incarico della signorina Stacy alla scuola di Avonlea. Quella sera Anna e Diana tornarono a casa con una profonda tristezza nel cuore. Gli occhi rossi e i fazzoletti umidi erano una convincente testimonianza del fatto che il discorso di addio della maestra doveva essere stato commovente almeno quanto quello del signor Phillips 3 anni prima. Dal fondo della collina di Pini, Diana lanciò un'occhiata all'edificio scolastico e sospirò. «Sembra che sia la fine di tutto, vero?» mormorò sconfortata. «Non dovresti soffrire quanto soffro io», ribatté Anna, cercando invano un angolino asciutto del fazzoletto. «Il prossimo inverno tu ci tornerai. Invece io temo di aver lasciato per sempre la nostra cara vecchia scuola. Certo, se sarò fortunata. Ma sarà tutto diverso, capisci?» La signorina Stacy non ci sarà più, e con tutta probabilità neppure tu, Jane e Ruby. Dovrò sedermi in un banco da sola, perché non sopporterei di avere una compagna diversa da te. Oh, quanto ci siamo divertite, vero Anna? È terribile pensare che sia tutto finito. Due lacrimoni rotolarono sul naso di Diana. Se tu la smettessi di piangere, forse ci riuscirei anch'io, gemette Anna. Non faccio in tempo a mettere via il fazzoletto che tu ricominci e scoppio di nuovo in lacrime pure io. Come dice la signora Lind, se proprio non puoi essere felice, sii il più allegro possibile. Alla fine mi sa tanto che l'anno prossimo sarò qui con te. Questo è uno di quei momenti in cui sono certissima al 100% che non passerò l'esame e stanno aumentando in maniera allarmante. Perché sei andata benissimo nella prova che avete fatto. Sì, ma sapevo che era solo un'esercitazione, quindi non mi sono agitata più di troppo. Quando penso all'esame vero e proprio, però, un brivido gelido mi stringe il cuore. Per giunta, io sono la numero 13 e Josie Pye dice che porta sfortuna. Io non sono superstiziosa e so benissimo che non fa differenza, ma preferirei non essere la 13ª, ecco. E io vorrei tanto venire con te, disse Diana. Potremmo darci alla bella vita in città, non credi? Anche se immagino che di sera vorrei ripassare. Oh, non dovrei, per la verità. La signorina Stacy ci ha fatto promettere di non aprire i libri. Secondo lei servirebbe solo a stancarci e a confonderci le idee. Ci ha suggerito di uscire a fare una passeggiata senza pensare all'esame e di andare a dormire presto. Di sicuro è un ottimo consiglio, ma non sarà così semplice seguirlo. Che poi con i buoni consigli finisce sempre così. Prissy Andrews mi ha detto che nella settimana degli esami lei è stata sempre sveglia a ripassare come una forsennata fino a mezzanotte e io ho intenzione di fare lo stesso. Tua zia Josephine è stata gentilissima a invitarmi a stare da lei a Beechwood quando sarò in città. Vero che mi scriverai? Ti scrivo martedì sera per dirti com'è andato il primo giorno, promise Anna. Allora mercoledì mi piazzerò in pianta stabile davanti all'ufficio postale. Garantì Diana. Anna andò in città il lunedì successivo e il mercoledì, come aveva promesso, Diana controllò a vista l'ufficio postale finché non ricevette la lettera. Carissima Diana, scrisse Anna, È martedì sera e ti scrivo dalla biblioteca di Beechwood. Ieri notte in camera mi sono sentita sola e ho desiderato con tutto il cuore che tu fossi qui con me. Non potevo ripassare perché avevo promesso alla signorina Stacy che non l'avrei fatto, ma evitare di aprire il libro di storie è stato difficile, come lo era un tempo trattenersi dall'aprire un romanzo prima di aver finito i compiti. Stamattina la signorina Stacy è venuta da me e siamo andate insieme alla Queen's Academy passando a prendere Jane, Ruby e Josie lungo il percorso. Ruby mi ha fatto sentire le sue mani, erano gelide. Josie ha detto che avevo la faccia di una che ha passato la notte in bianco e che se anche dovessi superare l'esame, secondo lei non ce la farò mai a reggere la fatica del corso per insegnanti. Guarda, ci sono momenti in cui dubito di aver fatto molti progressi nel voler bene a Josie Pye. Davanti alla Queen's Academy c'era una folla di studenti provenienti da tutta l'isola. Il primo che abbiamo visto è stato Moody Spurgeon, che se ne stava seduto sui gradini e bofonchiava qualcosa tra sé. Jane gli ha chiesto cosa stesse facendo e lui ha risposto che ripeteva le tabelline per calmare i nervi e per l'amor del cielo che non era il caso di interromperlo. Se si fosse fermato sarebbe stato preso dal panico all'istante e si sarebbe dimenticato tutto ciò che sapeva, mentre le tabelline lo aiutavano a tenere ogni nozione ferma al suo posto. Quando ci hanno distribuiti nelle varie aule, la signorina Stacy ci ha salutate. Jane e io eravamo nella stessa classe. Lei sembrava così calma che l'ho proprio invidiata, lo ammetto. Nessun bisogno di tabelline per la buona, solida e assennata Jane. Mi sono chiesta se si capisse come stavo io o se il battito del mio cuore si sentisse fino in fondo alla stanza. Poi è entrato un uomo che ha cominciato a distribuire i fogli con le tracce della prova di lettere. Mi si sono ghiacciate le mani e quando li ho presi sono stata assalita da un attacco di vertigini. Per un orribile istante, Diana, mi sono sentita come 4 anni fa quando ho chiesto a Marilla se mi avrebbe tenuta a Green Gables. Poi di colpo mi si è schiarita la mente e il cuore ha ripreso a battere. Scusa, ho dimenticato di dirti che si era fermato, perché mi sono resa conto che sarei riuscita a fare il tema. A mezzogiorno siamo tornate a casa per pranzo e nel pomeriggio siamo tornate per l'esame di storia. La traccia era davvero difficile e io ho fatto una gran confusione con le date. Tutto sommato però credo di essermela cavata decentemente, almeno finora. Oh, Diana, domani però c'è l'esame di geometria e se ci penso mi serve una forza di volontà titanica per non precipitarmi ad aprire il libro dei teoremi di Euclide. Se davvero le tabelline mi potessero aiutare in qualche modo, le reciterei fino a domani mattina. Stasera sono andata a trovare le altre ragazze. Per strada ho incontrato Moody Spurgeon, che vagava con la testa fra le nuvole. Mi ha detto che è sicuro di non avere superato la prova di storia, che è nato per essere una delusione per i suoi genitori e che vuole tornare a casa con il primo treno della mattina. E ha concluso che, in ogni caso, sarà più semplice fare il falegname che il ministro della chiesa. Io ho cercato di tirarlo su di morale e l'ho convinto a fermarsi fino alla fine, perché andarsene adesso non sarebbe corretto nei confronti della signorina Stacy, che ci ha dedicato tanto tempo. Guarda, qualche volta mi è capitato di desiderare di essere un maschio, ma quando vedo Moody Spurgeon sono strafelice di essere una femmina e anche di non essere sua sorella. Quando sono arrivata al pensionato, Ruby era in piena crisi isterica. Si era appena resa conto di aver fatto un errore madornale nel tema. Quando lei è passata, siamo andate in centro a mangiare un gelato. Oh, avrei tanto voluto che ci fossi anche tu. Oh, Diana, se solo l'esame di geometria fosse già passato. Ma, come direbbe la signora Lind, il sole continuerà a sorgere e a tramontare, che io lo superi o meno. Ed è vero, sebbene non sia particolarmente consolante. Se dovessi sbagliare tutto, preferirei che anche il sole si fermasse. Tua affezionatissima Anna. La prova di geometria e quelle successive si conclusero nei tempi previsti e il venerdì sera Anna tornò a casa stanca ma con un'espressione di moderato trionfo. Quando arrivò, Diana la stava già aspettando a Green Gables e le due ragazze si salutarono come se fossero lontane da secoli. Oh, mia cara, che meraviglia rivederti! Sembrano passati anni da quando sei partita per la città. Oh, Anna, allora, com'è andata? Oh, abbastanza bene, almeno così mi sembra, in tutte le materie tranne che in geometria. Non so se passerò o no, ma ho il terribile presentimento di non avercela fatta. Oh, però è così bello essere di nuovo qui. Green Gables è il posto più adorabile e meraviglioso del mondo. E gli altri come sono andati? No, le ragazze dicono tutte che sono già sicure di non avercela fatta. Invece, secondo me, sono andate benissimo. Josie sostiene che la prova di geometria era così facile che poteva farla anche un bambino di 10 anni. Moody Spurgeon è convinto di essere andato malissimo in storie e Charlie in algebra. Anche se nessuno è sicuro di niente, a dire il vero, e non avremo certezze finché non usciranno i risultati. Ci vorranno 2 settimane. Immagina come saranno queste 2 settimane di attesa. Vorrei poter andare a dormire e svegliarmi solo quando sarà tutto finito. Diana sapeva che era inutile chiedere come fosse andato Gilbert Blythe, perciò si limitò a dire: Oh, ma avrai di sicuro passato l'esame, non devi preoccuparti. Piuttosto che non essere tra i primi della lista, preferisco non passare, sbottò Anna, e Diana capì perfettamente cosa intendeva. Un eventuale successo sarebbe stato amaro e insoddisfacente se non avessi ottenuto un punteggio superiore a quello di Gilbert Blythe. Era quello il motivo per cui Anna ce l'aveva messa proprio tutta durante gli esami, e Gilbert aveva fatto lo stesso. Si erano incrociati per strada una decina di volte senza che né l'uno né l'altra mostrasse di riconoscere l'avversario, e in ogni occasione Anna aveva alzato ulteriormente la testa, amaramente pentita di non aver fatto la pace con Gilbert quanto lui gliel'aveva proposto. E ogni volta aveva giurato di superarlo all'esame. Sapeva che tutti gli studenti di Avon Lee si domandavano chi dei due sarebbe arrivato primo. E sapeva anche che Jimmy Glover e Ned Wright avevano scommesso sulla faccenda e che Josie Pye aveva dichiarato di non nutrire il minimo dubbio. Secondo lei Gilbert sarebbe stato in testa alla classifica. Anna sentiva che se non fosse riuscita a batterlo, l'umiliazione per lei sarebbe stata insopportabile. Ma aveva anche un altro motivo più nobile per desiderare di riuscire al meglio. Puntava a ottenere il massimo dei voti per Matthew e per Marilla. Matthew soprattutto aveva detto e ripetuto che lei sarebbe stata la prima di tutta l'isola. Era sciocco anche solo sognarlo. Anna ne era consapevole, ma desiderava con tutto il cuore arrivare almeno tra i primi 10 e vedere i dolci occhi scuri di Matthew brillare di orgoglio per il suo successo. Quella, si diceva, sarebbe stata la ricompensa più tenera e gradita per tutto il lavoro, per la fatica, per il tempo passato tra equazioni e coniugazioni aride. E decisamente poco fantasiose. Trascorse le fatidiche 2 settimane, Anna, Jane, Ruby e Josie, ansiose e agitate, cominciarono a controllare a vista l'ufficio postale, come aveva fatto Diana durante la loro assenza, e ad aprire il giornale di Charlottetown con mani tremanti e presentimenti terribili come quelli provati nel corso della settimana degli esami. Charlie e Gilbert non si mostrarono superiori e fecero come le ragazze. Moody Spurgeon invece si tenne alla larga. Oh, non ce la faccio ad andare in posta o leggere il giornale a sangue freddo, confessò ad Anna. Preferisco aspettare che arrivi qualcuno che mi dica senza tante storie se sono passato o no. Dopo 3 settimane, la lista dei risultati non era ancora stata pubblicata e Anna cominciò a temere che non avrebbe retto la tensione un'ora di più. Perse l'appetito e si disinteressò a ciò che accadeva ad Avon Lee. La signora Linde, intanto, sosteneva a gran voce, con chiunque fosse disposto ad ascoltarla, che non ci si poteva aspettare niente di diverso da un sovrintendente all'istruzione del partito conservatore, mentre Matthew, sempre più preoccupato per il pallore, l'apatia e i passi svogliati con cui Anna tornava ogni pomeriggio dall'ufficio postale, cominciò seriamente a domandarsi se alle elezioni non sarebbe stato meglio votare per i liberali. Finalmente, una sera, la notizia tanto attesa arrivò. La ragazza era seduta accanto alla finestra, aperta, e si godeva la bellezza del tramonto estivo, il profumo dei fiori che saliva dal giardino, il delicato fruscio dei pioppi mossi dalla brezza, senza arrovellarsi, una volta tanto, sull'esito dell'esame e sulle preoccupazioni del mondo. Sopra gli abeti, il cielo a est era di un rosa delicatissimo, grazie al riflesso del sole che calava a ovest. E Anna si stava domandando con aria sognante se l'anima dei colori potesse avere quella dolce sfumatura. quando vide Diana correre attraverso il boschetto di abeti, lungo il ponticello di tronchi e risalire infine il pendio verso Green Gables, sventolando un giornale. Anna balzò in piedi, immaginando subito ciò che conteneva. Finalmente erano usciti i risultati. La testa le girava come una trottola e il cuore batteva così forte da farle male. Non riuscì a fare nemmeno un passo. Ebbe l'impressione che Diana impiegasse un'ora a entrare di corsa nell'ingresso e a irrompere in camera sua senza neppure bussare, tanta era l'eccitazione. «Anna, l'hai passato!» gridò. «Sei la prima! Tu e Gilbert, tutti e due, siete pari, ma il tuo nome è scritto prima del suo. Oh, sono così fiera di te!» Diana lanciò il giornale sul tavolo e si buttò sul letto sfinita, senza fiato e incapace di aggiungere anche solo una parola. Anna accese la lampada, ma svuotò la scatola dei fiammiferi sul tavolino e ne consumò almeno 5 o 6 prima che la mano tremante riuscisse a completare l'operazione. Solo a quel punto prese il giornale. Sì, aveva superato l'esame. E sì, il suo nome era il primo di una lista di 200 persone. Sì, la vita meritava di essere vissuta. Oh, Anna, hai fatto un capolavoro! Ansimò Diana, riprendendosi abbastanza da riuscire a sedersi e a parlare, mentre l'amica, con gli occhi che brillavano felici e sconvolti, non aveva ancora aperto bocca. Papà è arrivato da Bright River non più di 10 minuti fa e ha portato a casa il giornale. Fai conto che lui è rientrato con il treno del pomeriggio, quindi qui non arriverà prima di domani mattina con la posta. E appena ho visto che avevano pubblicato i risultati, sono corsa via a scapicollo. Siete passati tutti, anche Moody Spurgeon, che in effetti ha preso un voto basso in storia. Jane e Ruby sono andate benino e sono a metà graduatoria, e anche Charlie. Josie ce l'ha fatta per un pelo, appena per 3 punti, ma vedrai quante arie si darà, neanche fosse arrivata prima. La signorina Stacy sarà felicissima, non credi? Oh, Anna, come ci si sente a vedere il proprio nome al primo posto di quella lista? Se fosse successo a me, come minimo sarei impazzita per la gioia. Sono già quasi impazzita così, mentre tu sei calma come una serata di primavera. E più che calma, direi sopraffatta dall'emozione, precisò Anna. Vorrei dire mille cose e non trovo le parole. Una cosa simile non me l'ero mai neanche sognata, o meglio, una volta sì, mi sono permessa di pensare. E se arrivassi prima? Ma è stata solo questione di un attimo, perché mi sono subito sentita vanitosa e superba a sperare di essere la più brava di tutta l'isola. Scusami un attimo, Diana, devo correre giù al campo per dirlo a Matthew, poi andiamo a dare la buona notizia anche agli altri. Le due amiche raggiunsero il campo sotto il fienile, dove l'uomo stava preparando i covoni, e trovarono lì anche la signora Linde che, appoggiata allo steccato lungo il sentiero, stava chiacchierando con Marilla. «Oh, Matthew!» esclamò Anna. «Ce l'ho fatta e sono la prima! O meglio, tra i primi, non mi voglio vantare, ma ringrazio il cielo!» «Beh, ecco, io l'ho sempre saputo!» Fu il commento di Matthew mentre esaminava con fierezza l'elenco dei promossi. «Ho sempre saputo che potevi batterli tutti come se niente fosse!» «Devo riconoscere che ti sei fatta onore, Anna!» intervenne Marilla, cercando di nascondere all'occhio critico della signora Linde l'immenso orgoglio che le scaldava il cuore. Invece, quella brava donna aggiunse con calore: «Ti sei comportata davvero bene e non mi tratterrò dal confermarlo. Sei un vanto per i tuoi amici, Anna. Questo è quanto. Siamo tutti molto orgogliosi di te.» Quella notte, Anna, che aveva allegramente concluso la serata in canonica con una bella chiacchierata con la signora Allan, si inginocchiò di fronte alla finestra aperta e, inondata da un limpido chiaro di luna, mormorò una preghiera di ringraziamento e di buoni propositi che le sgorgò dritta dal cuore. Era una preghiera piena di gratitudine per il passato e di reverente supplica per il futuro. Quando si addormentò, con la guancia posata sul cuscino candido, i suoi sogni furono i più belli, luminosi e piacevoli che un adolescente possa desiderare.